presto alla fontana calavavi. Calabrisella mia, questo occhi scuri, quando rumoro i panni tu li cavi, t'hai arrubato meglio maccaduro. Calabrisella mia, Calabrisella mia, Calabrisella mia, giuro d'amore. Tiro l'allera, l'allera, l'allà, sta Calabrisella morire mi fa. Tiro l'allera, l'allera, l'allà, sta Calabrisella morire mi fa. Prima mai di tusini e monum vua, dici ma chi di spagni bedda mia, casi di spagni da famiglia tua, brazzo di piglio e non ti lasso mai. Calabrisella mia, Calabrisella mia, Calabrisella mia, giuro d'amore. Calabrisella mia, Calabrisella mia, Calabrisella mia, giuro d'amore. Tiro l'allera, l'allera, l'allà, sta Calabrisella morire mi fa. Tiro l'allera, l'allera, l'allà, sta Calabrisella morire.